Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il senso di appartenenza, le radici, sono un tratto imprescindibile dell'essere umano? Parrebbe proprio di sì. Siamo tutti legati a quella che definiamo la nostra terra, alle sue culture, le tradizioni. Vi sono uomini che hanno dato la vita per difendere questo legame in ogni angolo del mondo. Oggi Destini Incrociati si occupa di coloro che invece hanno abbandonato la loro terra e rifiutato l'idea stessa di appartenere a un luogo, per aiutare altri uomini a trovare la strada della pace. Questi uomini non hanno rinnegato loro stessi, ma sono andati ancora più a fondo per cercare e trovare le radici della propria umanità. La storia di oggi racconta di due uomini che hanno saputo rinunciare alle proprie radici e che, incontrandosi, hanno cambiato l'uno il destino dell'altro. Kabul, Afghanistan. Alle pendici delle montagne sorge il centro ortopedico della Croce Rossa Internazionale. È un caseggiato basso, in cemento prefabbricato, con tetti in lamiera e paglia, ma tutto sommato moderno e funzionale. È stato istituito molti anni fa ormai, nel 1990, quando una guerra di cui era quasi impossibile capire quali fossero le parti avverse cominciava a mietere sempre più vittime tra i civili. I russi hanno abbandonato il paese nel 1989, lasciando l'Afghanistan nelle mani dei suoi liberatori, i talebani, studenti della fede, e di una dozzina di gruppi armati che si contendono il controllo delle vie di comunicazione. Unica eredità certa, un tappeto di ordigni inesplosi e innumerevoli mine antiuomo che svolgono instancabili la loro missione di uccidere e più spesso mutilare altri esseri umani, nella maggioranza dei casi indifesi e innocenti. Quel centro ortopedico è coordinato da un italiano. Ancora in questi giorni, nel sud, a Helmand, dove tra il resto nel mese di luglio apriremo un centro ortopedico nuovo proprio per i bisogni enormi. La facilità è incredibile, cioè a Helmand, nella provincia di Helmand ci sono stati combattimenti, ci sono ancora combattimenti in corso adesso tra le forze straniere, il governo afghano e i talebani, e le mine sono state messe a migliaia. La voce che avete appena sentito è quella del nostro primo protagonista della nostra storia. Lavora tra mille difficoltà. Con i talebani al potere ogni attività è strettamente analizzata e spesso proibita. Ma prima di andarlo a conoscere, cerchiamo di saperne di più di un paese meraviglioso che è diventato sinonimo di emergenza e di guerra. Marzo 2001. I talebani, per ordine delle massime autorità religiose, danno ordine irrevocabile di distruggere i Buddha di Bamiyan, le due statue scolpite nella montagna e alte più di 50 metri, risalenti al III e V secolo d.C. Monumenti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Dopo qualche mese, per ordine di altre autorità, vengono distrutti altri due simboli della grandezza dell'uomo, le Twin Towers a New York, con un tributo di vittime umane senza precedenti nel mondo occidentale. Due eventi senza un diretto legame tra loro, che però sono strettamente correlati allo stato di emergenza di un paese, l'Afghanistan, che per qualche decennio, fino al 1978, ha vissuto in pace e relativa prosperità. Fino a quel momento era un luogo senza tempo, nel quale l'ospite era sacro e i bambini potevano giocare con i loro aquiloni. Da bambini, Hassan ed io ci arrampicavamo su uno dei pioppi lungo il vialetto che portava a casa mia, e da lassù infastidivamo i vicini riflettendo la luce del sole in un frammento di specchio. Ci sedevamo uno di fronte all'altro, su un ramo, le gambe nude a penzoloni, e mangiavamo more di gelso e castagne di cui avevamo sempre le tasche piene. Usavamo il frammento di specchio a turno e ci tiravamo le more e ridevamo come matti. E la voce di Amir nell'incipit de Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Nulla di più che un momento felice per l'infanzia dei due protagonisti, ma capace di rievocare tutta la serenità che si poteva godere a Kabul prima del 1979. تو بیمارم کرد L'Afghanistan non ha sbocchi al mare. È una terra montuosa, sferzata dai venti continentali, fredda d'inverno, torrida e riarsa d'estate. La steppa è la sua vegetazione, la pastorizia e l'oppio le sue risorse principali. Insomma, non è proprio un Bengodi. In compenso offre panorami mozzafiato, vallate verdeggianti delimitate da catene montuose innevate, susseguirsi di colline desertiche in prossimità di laghi glaciali privi di vegetazione. Inoltre, si trova nel posto giusto per dominare le vie di comunicazione tra est e ovest. Doveva essere la sua fortuna. Si è trasformata nel suo inferno. La flemma con la quale un pastore osserva i fuoristrada sfrecciare sulle piste è indifferenza alle ragioni della fretta, della velocità. Qui nulla potrà cambiare l'ordine delle cose. Se è così, è così che deve essere. Prima gli inglesi, all'inizio del XX secolo, hanno provato a esercitare la loro influenza sul territorio. Poi, come abbiamo detto, i russi, nel tentativo di deislamizzare un'area difficile e confinante. Poi gli americani, come reazione all'attacco al cuore della loro terra posto in essere da Al-Qaeda. Tutti hanno trovato lo stesso pantano, le stesse difficoltà, nuovi e rinnovati Vietnam. Saltano sulle mine antiuomo posizionate dai russi, sui pappagalli verdi lanciati dagli elicotteri da combattimento, sulle mine di fabbricazione italiana riciclate dal signore della guerra di turno. Saltano gli afghani. Se è così che deve essere, così sia. I sopravvissuti hanno un solo appuntamento. Il centro ortopedico di Kabul, diretto da un torinese minuto e dalla tempra forte. Il suo nome è Alberto Cairo. Alberto Cairo. All'inizio, i primi anni, per me era una pena enorme vedere persone senza braccia, senza gambe o con altre disabilità venire al centro ortopedico e mi domandavo, dicevo, oddio, questo è un'altra persona con una disgrazia terribile, gli è accaduto qualcosa di tremendo, e vedevo la cosa piuttosto in maniera quasi sicuramente negativa, con difficoltà. Adesso ho imparato il contrario, ho imparato di vedere le cose con un certo ottimismo, per quanto il problema questo ci sia, è indubbio, se uno ha perso le gambe, naturalmente le ha perse e non ricrescono, però ho imparato a non scoraggiarmi e a aiutare chi viene a non scoraggiarsi, a pensare subito, beh, questo ha perso le gambe, ma tra 3 settimane, 1 mese, 2 mesi, ce la farà. Alberto detesta che gli si attribuiscano meriti. Lui fa solo il suo lavoro, un mestiere che è nato dalla passione, considerato che il suo futuro avrebbe dovuto essere quello di un benestante avvocato di Torino. Gli anni Ottanta, per un giovane studente universitario, sono magici, ricchi di suggestioni. La musica, il cinema, la moda, le opportunità lavorative che si dischiudono numerose. È un momento in cui puoi prendere delle decisioni importanti se quello che vedi intorno a te ti sta stretto. E Cairo scopre in questi anni la propria vera vocazione. Il volontariato. Difficile in questo periodo avere come riferimento gli altri. Sono gli anni dell'edonismo, dell'individualismo, degli obiettivi personali. Non resta che una via d'uscita. Andare dove il bisogno è più forte di ogni chimera, di ogni tentazione. Così, per caso, ero finito al Cottolengo di Torino, proprio per una visita, e ricordo che avevo incontrato un signore che faceva il volontario vero, e mi aveva spiegato, mi aveva fatto vedere con degli esempi molto, molto semplici, come con piccoli accorgimenti, veramente la vita di persone, che le persone, i poveri, erano veramente persone povere, abbandonate, lui assisteva, come potesse cambiare la vita. E mi aveva fatto capire, scoprire una cosa semplicissima che poi col tempo ho capito che era la fisioterapia. Per Alberto la strada è come un fiume in piena. Difficile decidere di imbrigliarlo verso una direzione alternativa. Una vita normale che prende una svolta definitiva con la scoperta di una passione. C'è stato un momento della mia vita, quando avevo quasi 28 anni, una cosa del genere, per cui ho detto, ma mi sono chiesto veramente, voglio diventare avvocato, voglio fare la carriera legale o voglio fare qualcos'altro? E mi è venuto prepotentemente, mi è tornato alla mente questo la voglia di cimentarmi nella fisioterapia, e con lo scopo ultimo, non proprio ultimo, ma con lo scopo anche di poter fare un po' più di volontariato, di farlo in maniera diversa. Si può fare il volontariato anche da avvocati, ma io volevo farlo in un altro modo. E così ho cambiato, sono tornato a scuola, sono diventato fisioterapista, poi ho viaggiato in Inghilterra, in Francia per specializzarmi un pochino, ho lavorato poi in Italia e poi sono partito per l'Africa. Il Sudan, subito un altro mondo. dove le cose essenziali sono alleviare la sofferenza, cercare di ripristinare le funzioni vitali di base, lontano dal superfluo, lontano da tutte le sovrastrutture del mondo occidentale. Cairo studia ortopedia e fisioterapia. È già un uomo maturo ed esperto, a 35 anni, una laurea alle spalle e un futuro da fisioterapista davanti. È il momento per un incarico importante da parte della Croce Rossa Internazionale. È il momento dell'Afghanistan. Come politica abbiamo adottato quella di una discriminazione positiva. Diamo lavoro soltanto a persone disabili. Cioè, se lei viene al centro ortopedico nostro, in uno dei centri ortopedici nostri, e arriva e la persona che le apre la porta è uno senza un braccio, quello che poi la visita è un signore in carrozzina, quello che le fa le domande, che registra il suo nome, che comincia, il fisioterapista che comincia a fare il trattamento, è un ragazzo, è qualcuno, o una ragazza senza una gamba. Sono circa 350 i dipendenti coordinati da Alberto Cairo nei vari centri della Croce Rossa dell'Afghanistan, tutti con un handicap, tutti in grado di parlare di dolore in prima persona, capaci di instaurare col paziente uno straordinario legame di fiducia e di speranza. Poi, naturalmente, ci sono gli afghani. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. È molto facile lavorare con loro, lavorare con gli afghani è una cosa estremamente facile ed è un grande piacere. Ecco, poi quello che non amo è la loro testardaggine, non amo i preconcetti, non amo assolutamente il modo in cui trattano le donne, perché questo fa parte della loro cultura, non mi piace i pregiudizi che hanno verso gli altri, possono mentire molto facilmente, cioè c'è tutto. Mi sta facendo una domanda estremamente difficile perché c'è una varietà enorme, enorme di ma quello che ho detto è tutto vero. Difficile generalizzare, come dice Alberto. Eppure la Terra esercita questo legame fortissimo che impedisce ogni cambiamento, che riporta a leggi ancestrali ogni tentativo di provare nuove strade. Tutto sembra fatto in Afghanistan per non cambiare mai. Nei primi anni 70 le automobili erano molto rare. Si viaggiava a dorso di mulo, col carretto, più semplicemente a piedi. Oggi, benché il caos dei motori a scoppio riesca a dare il peggio di sé, i mezzi di locomozione più diffusi sono il mulo, il carretto, le gambe. Già, senza le gambe non si va da nessuna parte, men che meno in Afghanistan. Questo Alberto lo sa bene. Ogni giorno un paio di nuovi pazienti si uniscono ai numerosi oggetto delle cure del centro, tutti animati dal desiderio di riprendere la propria vita. Solo alcuni dal desiderio di cambiarla per sempre. Sono quegli uomini e donne che non si rassegnano e che immaginano se stessi altrove, forse un giorno. Sicuramente chi arriva qua, soprattutto se la disabilità è grave, è seria, non è facile per nulla. Arrivano veramente depressi, arrivano veramente in condizioni molto molto difficili. E a volte veramente ci sono persone con le quali non si riesce a stabilire un contatto. Cioè proprio ormai sono andati troppo in là. Hanno sofferto troppo, non sono convinti di farcela. Per le donne con un'invalidità il problema di realizzare il proprio futuro è doppio. Non vengono più accettate dal loro clan, non possono più sposarsi, sono emarginate, probabilmente destinate a mendicare o peggio al suicidio. La società maschilista e tribale non ha pietà e non può permettersi deroghe, soprattutto nei primissimi anni 90, dove il regime è impersonificato dai talebani, studenti religiosi estremisti che applicano una loro personale interpretazione delle leggi coraniche, molto restrittive nei confronti delle donne, alle quali viene negata l'istruzione, l'insegnamento, il voto, la circolazione per le strade. Cairo decide di andare ancora controcorrente e laddove non riesce ad assumere donne per il proprio centro, dà via a programmi di microcredito senza interessi per permettere alle donne di intraprendere un'attività e riuscire a provvedere al proprio sostentamento. Sono molto contenti che io sia uno straniero, che tenga una certa distanza, mantenga una certa distanza dal paese, per quanto io ne sia mischiato in maniera, potete immaginarlo, può ben immaginare, vivo qui da 20 anni, quindi è parte della mia vita, però sono contenti di vedermi straniero e io sono contento di sentirmi straniero, nel senso che garantisco, c'è questa distanza che garantisce una certa obiettività. Loro si fidano di me, io mi fido di loro, ci controlliamo, ci sospettiamo, ci annusiamo a vicenda, però c'è fiducia. Ecco, direi che questo rapporto ormai ventennale, basato su fiducia, su abitudini comuni, su fedeltà e su la mia permanenza, la permanenza della Croce Rossa nel tempo, è quello che mi consente di fare cose che altrimenti non potrei fare. La straordinarietà di Alberto Cairo sta nella sua concretezza, nella semplicità del suo pensiero, che vede nei piccoli miglioramenti della vita il segreto della riuscita. Non crede nel destino, Cairo, non come gli afghani. È questa la grande differenza e nello stesso tempo la grande speranza che rappresenta in questa terra martoriata da oltre 30 anni. La vita normale per l'afgan, per un afgano è il rischio. Vivere in una situazione di difficoltà. Normale è la povertà, normale è l'essere considerato e visto con sospetto sempre, comunque dovunque un afgano vada adesso lo si guarda dicendo questo che farà, chi sarà. È una situazione di identità che viene in qualche modo stravolta. Mentre noi ci alziamo, andiamo al lavoro, programmiamo le nostre vacanze, ci preoccupiamo del maltempo e del traffico, a Kabul si vive con la paura dei missili, l'impossibilità di studiare, la mancanza di generi alimentari. La normalità da 30 anni a questa parte. Ed è a questo punto che facciamo un passo indietro ed entriamo nella vita di un giovane ragazzino afghano di etnia turca, un ragazzino che, come tutti gli afghani, ha solo un nome, Jawad. Entriamo in casa sua. È il 1985. L'Afghanistan è occupato dai russi. La guerriglia combatte con una forza inimmaginabile all'inizio del conflitto. I russi hanno già pagato con le vite di migliaia di soldati, gli afghani con centinaia di migliaia di civili. Jawad nasce a Kabul e i suoi genitori si trovano subito alle prese con i problemi più normali che diventano insormontabili, come le vaccinazioni. A Kabul si dice che le vaccinazioni siano pericolose e i genitori di Jawad sono indecisi. È a questo punto che succede l'inimmaginabile. Jawad si ammala di poliomielite, mesi in coma dai quali si riprende, ma il bambino non potrà più camminare. Un destino segnato il suo. Laddove una bomba non è riuscita a strappargli le gambe, una malattia fa lo stesso risultato. Per il bimbo, come per molti afghani, è una condizione con la quale convivere. Un ragazzino è più plastico, più malleabile, più accetta forse in qualche modo, non sempre, ma in qualche modo più facilmente il proprio handicap, riesce in qualche modo a ricostruire. Però non si può generalizzare, ho veramente visto tragedie in tutte e due le fasce d'età, è molto molto difficile, in ogni caso è una sofferenza enorme. Alberto Cairo ha visto tanti bambini mutilati dalle bombe, è un fisioterapista italiano in prima linea e non ha mai assistito un malato di poliomielite. Non è previsto dal suo codice, dalle sue regole, non è previsto, ma lo farà, tra poco, a Destini Incrociati. I got my finger on the trigger. But I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. Destini incrociati. È il 1996. Kabul è una città stremata dalla guerra prima e poi dall'oppressiva amministrazione talebana che ha eliminato il gioco, lo sport, il sorriso, i diritti delle donne e la possibilità per un bambino di aspirare alla felicità. Jawad è un bambino che a causa della poliomielite ha perso l'uso delle gambe. È il primo di tre fratelli. Ama giocare, ha imparato a convivere con la sua malattia, ma è diverso dagli altri. Ogni volta che osserva un orizzonte si chiede cosa c'è oltre. Ogni volta che impara un gioco vuole conoscerne uno nuovo. Fino al 1997 io non ero in grado di leggere e scrivere. Ma ho sempre avuto il desiderio, il sogno di scrivere e leggere. Avevo alcuni amici che sapevano farlo e desideravo tanto poter scambiare lettere con loro. Jawad vive ormai da 13 anni con i genitori e non è mai andato a scuola. Non potrebbe, dicono i dirigenti scolastici. Non ci sono banchi adatti a lui e poi, in caso di emergenza, non potrebbe scappare come tutti gli altri. Due o tre volte ho tentato di convincere mia mamma a portarmi alla scuola vicino casa e a iscrivermi, così da provare la logistica, cosa significava arrivare lì. E così ci sono andato un paio di volte e abbiamo avuto un incontro col preside, che dopo una lunga conversazione ci rispondeva che il problema era che non avevano tavoli, banchi e strumenti scolastici. Bisognava star seduti per terra, con il pericolo dei missili. In caso di emergenza, Jawad non riuscirebbe a scappare. L'Afghanistan è in emergenza da quasi 20 anni. Qui l'emergenza è la normalità. Eppure perché desistere? Jawad è impressionato dalle insegne, le scritte arabe, quelle in persiano. I numeri arabi e le parole, i segni, la punteggiatura, capisce che è la loro combinazione a formare le parole, i discorsi, a interpretare la realtà, a fornirne una spiegazione. Ma gli afghani non desiderano spiegazioni, sono abituati a prendere la realtà come viene. Non Jawad. Così come fai una casa e parti dalla terra, dalle fondamenta, così io ho pensato di concentrarmi su ciò che avrei potuto fare da solo per la mia educazione. Anche se non è molto, è sempre qualcosa. Jawad, passo dopo passo, è deciso a imparare, anche da solo. Tutte le parole che vedevo scritte, ne riconoscevo tutti i simboli e mi dicevo, bene, questi sono simboli e in qualche modo li posso usare. Così vedevo le lettere, i numeri, la punteggiatura. Tutto ciò che è scritto nel mondo è un insieme di tutte queste cose. E devo solo trovarne il criterio, il modo di combinarle insieme. Quando Jawad si fa accompagnare al centro ortopedico per riprendere almeno in parte un minimo di mobilità, il responsabile Alberto Cairo è perplesso. Lui ha sempre curato inabilità causate dalla guerra, non è preparato ad affrontare malattie. Chissà, magari viene attratto dalla curiosità di quel ragazzino. Curiosità che diventa entusiasmo quando il piccolo viene attratto da alcuni zainetti contenenti astucci con matite, carte, penne e colori. Vuole anche lui cimentarsi, ma quegli oggetti non sono per lui. Sono per chi va a scuola, gli viene detto. Al diavolo le gambe. La disabilità di Jawad è nel non sapere né leggere né scrivere e avere già 13 anni. Com'è possibile? La sua mente funziona benissimo. Lei non merita tutto questo. Il pressing sulla madre si fa straziante. Lei non ne può più, ma capisce che il bambino ha un diritto e un'esigenza. Ma a chi chiedere? Le scuole non lo vogliono. C'è solo una persona che ha espresso tutta la sua attenzione e comprensione sino ad ora. Il suo nome è Alberto Cairo. La donna si mette in spalla Jawad e chiede un nuovo colloquio al fisioterapista. Lui sa ascoltare. A volte non ci sono. La vita è fatta di gesti clamorosi, ma è fatta anche di piccole cose, la vita di ciascuno di noi. E queste piccole cose sono quotidianità, sono cose apparentemente banali, sono un gesto sono una gentilezza, sono un aiuto, una pacca sulla spalla, proprio senza fare facile retorica. Sono i piccoli gesti che fanno la vita di tutti i giorni. E io ricordo che in questo, al Cottolengo, mi ricordo questo, un paio di signori, un paio di persone molto molto anziane che non riuscivano a mettersi in piedi, e questo volontario faceva far loro dei gesti molto semplici, aiutandoli un pochino, spingendoli un pochino, tirandoli, cose banalissime. E questi signori non soltanto erano contenti di potersi rimettere in piedi nel vero senso della parola, ma erano contenti anche che qualcuno si interessasse a loro, disinteressatamente, senza secondi fini. E questa è una cosa che avevo visto, queste persone improvvisamente sorridere, improvvisamente trasformarsi, e questo mi aveva affascinato moltissimo. Poi questi aiuti a cui ho fatto cenno, se sono fatti in maniera professionale, diventano proprio veramente delle terapie. Ma già l'essere gentili con gli altri, l'essere attenti agli altri in maniera disinteressata, questa è una terapia meravigliosa che veramente cambia la vita di tutti e cambia anche la vita di chi? Del volontario, di chi si rende utile agli altri. Una lezione che Cairo ha imparato bene. E sia, grazie al fisioterapista italiano e l'utilizzo di alcuni fondi privati, a Jawad viene fornito un maestro che tutte le mattine, 6 giorni a settimana, gli fa lezione. Ho incontrato Alberto nel 1996. Ero molto giovane, avevo circa 12 anni. Lui è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita. Non ho mai incontrato nessun altro come lui. Persino i religiosi onorano la sua dedizione al lavoro. Grazie alle nozioni apprese da solo, Jawad parte già dalla terza elementare. Il ragazzino è un portento. Si porta avanti a una media di una classe ogni 4 mesi. Ma bisogna stare attenti. Un bambino menomato che studia tutt'altro che sure e precetti islamici non è ben visto nella società talebana. Il suo gioco potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Don't know much about history. Don't know much biology. Jawad studia, arriva alle medie e l'esigenza di insegnanti specializzati cresce. Arrivano gli insegnanti di algebra, chimica, scienze. A metà del 1998, Jawad finisce le medie. Jawad, giovane ragazzino afghano di soli 13 anni, ha bruciato tutte le tappe del sapere. In pochi mesi ha seguito 5 anni di corsi scolastici, imparato l'inglese, tutto grazie al supporto di Alberto Cairo, fisioterapista direttore del centro ortopedico della Croce Rossa Internazionale di Kabul. Alberto fa altro per lui, lo iscrive a un corso di computer. È il 1998. L'anno successivo Jawad viene assunto al centro ortopedico come operatore informatico. Un'occasione che prende al volo, continuando allo stesso tempo a studiare. Ho avuto questa possibilità di trovare un lavoro presso la Croce Rossa Internazionale e questo mi ha permesso di guadagnare un po' di soldi. E la domanda che mi sono subito posto, una volta che ero in una casa accogliente e interessante, era quale sarebbe stata la prossima casa. Cosa c'è là fuori? È cominciata la mia curiosità e l'Italia era uno dei paesi che più stimolavano la mia fantasia. È un paese dove è nata la civiltà, insieme alla Grecia, l'India, la Cina, la Mesopotamia. Il motivo pratico per cui sono venuto in Italia è stato un italiano, Paolo Rumiz, che si è interessato a me e mi ha offerto questa possibilità. Paolo Rumiz è in Afghanistan per conoscere proprio Alberto Cairo. Alla hall dell'albergo si imbatte in Jawad, che all'età del liceo nel frattempo ha imparato a costruire relazioni, rapporti. Non si fa sfuggire l'occasione. Lui conosce Alberto e lo può accompagnare da lui. Difficile non trovare quel ragazzo dagli occhi allegri e vitali simpatico. Rumiz, dopo il suo soggiorno a Kabul, trova quindi il modo di segnalare Jawad per il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Siamo nel 2002. Da un anno esiste un prima e un dopo per il mondo moderno. Prima e dopo l'11 settembre. In pochi mesi il governo americano, con l'ausilio di pochi alleati e i gruppi dell'Alleanza del Nord, ha rovesciato il governo talebano, accusato di sostenere e finanziare le basi di Al-Qaeda. Per la popolazione inizialmente è una festa, poi diventa semplicemente un'altra guerra. È così che Jawad la vede. La guerra ha effetti sempre molto locali. È un po' come l'economia. Hai presente quello che è successo in Grecia, le fluttuazioni dei prezzi? Colpisce le persone in modo diverso. Alcuni possono essere colpiti da quello che è successo, altri molto meno. In guerra tutto dipende da dove ti trovi, chi sei, se sei un combattente o una vittima. La gente ne parla troppo spesso in termini astratti. Per me è significato il cessare di una vita che mi piaceva. Smettere di giocare, per esempio. Adesso è arrivato il suo momento. Alberto Cairo lo accompagna con una jeep della Croce Rossa Internazionale all'aeroporto militare. Si imbarcherà a bordo di un G-222 dell'aeronautica militare alla volta dell'Italia, per studiare e aspirare a una vita diversa. I due si scambiano uno sguardo complice. L'uno sa cosa vuole l'altro e viceversa. Il bambino e l'uomo sono due figli del mondo che non il caso, ma la volontà ha fatto incontrare. Quando ho preso il lavoro al computer, il mio ufficio era proprio vicino a quello di Alberto e ho potuto capire dalla frequentazione quotidiana come lavorava e chi era. Non ho mai sentito il bisogno di entrare in confidenza con lui in quanto capo. Bastava il fatto che io fossi poco più di un bambino a creare il giusto rapporto. Chiamalo coraggio di bambino o come ti pare. We are the people that nobody knows. Soldiers for battles that no one never care about. Cause nobody cares. We are the money that nobody owns. Stood in the dangerous corners at the end of the road. So don't go there alone. Destini incrociati. A Destini Incrociati, un fisioterapista italiano, Alberto Cairo, dirige un centro ortopedico della Croce Rossa Internazionale a Kabul, Afghanistan. Sa perfettamente come aggiustare arti rotti, spezzati, strappati. Sa anche che la speranza può essere la medicina più efficace per ottenere i migliori risultati. Da lui si presenta con la sola forza di volontà un piccolo afghano di 13 anni, incapace di camminare a causa della poliomielite, incapace di leggere e scrivere a causa della stupidità della guerra. Non chiede aiuto a rimettersi in piedi fisicamente. Le gambe non funzionano, il cervello sì. In pochi anni, con l'aiuto di Cairo, Jawad, questo è il suo nome, brucia tutte le tappe. Fa gli esami di 11 anni a scuola dopo 6 anni di studio. Ha 19 anni. Conosce i computer, l'inglese, frequenta il liceo e un college italiano lo sta aspettando. Jawad viene adottato da una famiglia a Triestina e dopo 2 anni di college è già pronto all'università. Ma in Italia sono troppe le barriere per un disabile e Jawad è straordinariamente attratto dalla cultura anglosassone. Ha molte possibilità di scelta, è uno dei migliori studenti, le borse di studio non sono un problema per lui. È l'America quello che vuole e lo aspetta l'Università di Richmond, Indiana. La maggior parte dei problemi che noi abbiamo è dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra immaginazione. Il pericolo è quello di non far comunicare la realtà con la nostra fantasia. Non dobbiamo distruggere il ponte che c'è tra questi due lati della natura umana. Le fantasie di Jawad, la sua forza, il suo entusiasmo, derivano esclusivamente dalla sua volontà. Un disabile analfabeta avrebbe potuto immaginare di poter andare un giorno in una università americana. Allora perché non ambire a qualcosa di più importante ancora? Parlare con i potenti. Spiegare a loro come un ragazzo afghano vede la realtà della guerra. Fino a 3 anni fa, quando mi ponevo la questione di come battere i talebani, mi sono chiesto che cosa il popolo afghano avrebbe voluto ottenere in quel momento. Se quello che voleva era di vivere una vita in pace e continuare la vita in libertà, andare a scuola e eleggere chi ti rappresenta in Parlamento, penso che questo obiettivo sia stato raggiunto e che in America non ci siano più tante persone che pensano che questo obiettivo sia stato raggiunto solo con la forza militare. Jawad studia, raccoglie contatti e riesce a entrare in rapporti con un senatore dell'Indiana con il quale scambia opinioni sul suo paese. Riesce persino a scambiare qualche email con un senatore dell'Illinois. Si chiama Barack Obama. Because this is not simply an American mission or even just a NATO mission. Al-Qaeda and their extremist allies are a threat to the people of Afghanistan and the threat to the people of America, but they're also a threat to people all around the world, and that's why we're so proud to have our coalition partners here with us. Thank you very much for the great work that you do. We salute you and we honor you for all the sacrifices you make, and you are a true friend of the United States of America. Thank you very much. Sono le parole di Barack Obama alle truppe impegnate in Afghanistan. Jawad pensa che può fare qualcosa. L'arrivo di Obama alla guida degli Stati Uniti è un'occasione troppo importante. Tutto quello che facciamo dipende da una meccanica. Ha una relazione diretta con le nostre azioni. La storia di Obama, partita dall'essere un attivista sociale di una comunità, che poi lo ha portato a diventare senatore e poi correre per la Casa Bianca, non sarebbe stata possibile solo 4 anni fa. Per poter realizzare certi obiettivi, devi essere in quel posto quando ti passano la palla. E Obama era preparato, aveva dei piani, ma era anche al posto giusto. Credo che Obama, sin da quando era un ragazzo, aveva un sogno. Non sapeva se sarebbe stato raggiunto, ma ci ha lavorato dal principio. E questo è un esempio importante per il mondo. Un esempio importante per Jawad, che si laurea in antropologia e riesce a collaborare come analista per le istituzioni americane. Oggi viaggia tra Stati Uniti e Afghanistan, ma come Alberto Cairo, ha capito che il suo posto è il mondo, laddove riesce a stabilire legami, dialogo, connessioni con altri esseri umani, per parlare di ciò che più conta nella nostra vita, vivere in pace, insieme, senza frontiere, vincoli, senza contrasti. Sweet woman child, needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Sad that it took a world's lifetime to see. Peace wanted just to be free. Jawad oggi ha anche un cognome, Gioia, che significa esploratore. Ci vuole un cognome per andare a spasso nel mondo. E niente di meglio per Jawad, che vuole conoscere sempre il nuovo ovunque vada. Qual è l'ovest? Qual è l'est? Se togli le etichette fino in fondo alle persone, penso che scoprirai che l'est ha aiutato a creare l'ovest tanto quanto viceversa. Io sono un essere umano. Il mio paese è la terra intera. Se pensi a te stesso come a un triestino o torinese o quello che vuoi, ti dico che i confini non servono a nulla. Io vedo me stesso e penso a un Kabuli triestino. Restano i legami con le persone davvero importanti nella sua vita, come Alberto Cairo, che è sempre a Kabul. Non è la sua nuova terra, ma semplicemente il luogo dove ama lavorare. Qui in Afghanistan la vita è molto più essenziale, nel senso che si va molto più al sodo. Le cose veramente che servono, quelle che sono indispensabili nella vita. Da noi si va molto nella direzione del superfluo, dello spreco. Io continuo, quando vado in Italia, incontro persone che non riesco a capire, cioè hanno i loro problemi, cioè hanno tanti problemi, tutti ne abbiamo, però veramente si perdono in mille cose superficiali che non sono così essenziali e fanno diventare queste cose superficiali delle cose essenza di vita. Qui invece si sta molto più coi piedi per terra. Alberto Cairo è sostenuto per la candidatura al Nobel per la pace 2010 e Jawad Joya, 26 anni, è attivamente impegnato come analista politico per l'amministrazione americana. Entrambi hanno un sogno, entrambi li perseguono seguendo strade diverse, due strade che per un momento si sono magicamente incrociate. Raggiungere la popolazione, parlarle e dirle: siamo qui per aiutarvi, siamo al vostro fianco, vogliamo mettervi nelle condizioni di difendere il vostro paese. Questa strategia può avere una possibilità. Il Senato americano non potrà contare solo sulle truppe e su politici afghani corrotti. Il mio sogno, il sogno dell'Afghanistan, cosa vorrei fare in Afghanistan? Ecco, il mio sogno è quello di poter vedere l'Afghanistan come lo vedevano 30 anni fa, 35 anni fa, gli hippie, i viaggiatori, i turisti che venivano qua, che viaggiavano per il paese senza alcun problema, andavano ovunque, accolti come dei principi dagli afghani, potevano visitare le meraviglie di questo paese, perché vi assicuro, l'Afghanistan è di una bellezza sconvolgente.